Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Dal Groove Master Studio di Radio 24 diamo il via al soundcheck numero 242, la prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e ancora una volta buonasera al nostro comunicatore multimediale della nuova generazione, Monsieur Francesco Tromba. Addirittura sono diventato francese. Anche francese, anche in francese ti voglio annunciare, perché bisogna utilizzare il più possibile un linguaggio internazionale per farci comprendere da tutti gli amici che sono in contatto con noi. Lo sai che stiamo avendo dei grandi risultati dall'estero? Sì, l'ho visto, l'ho notato. Sei contento? Contentissimo. Oh, e allora Francesco Tromba, che cosa vogliamo fare oggi? Di solito noi la prima parte del sabato la dedichiamo al repertorio in italiano, però siccome abbiamo degli ospiti che arriveranno più tardi, direi di rimandare l'appuntamento praticamente dopo le news delle ore 20. Ribaltiamo la scaletta. Sì, perché chi abbiamo nostri ospiti oggi al soundcheck più tardi? Importantissimi, soprattutto abbiamo Beppe Servillo, che è grandissimo, degli Avion Travel, no? Il vocalist degli Avion Travel, e anche Natalio Mangalavite, che hanno fatto un altro disco insieme. Sì, che si intitola Parientes. Parenti. Ovvero parenti. E sì, ormai sono diventati parenti, un album quasi a conduzione familiare, perché lo hanno realizzato tre grandissimi amici. Peppe Servillo con la sua vocalità teatrale, Javier Girotto, sassofonista argentino residente in Italia ormai da tanto tempo, e anche Natalio Mangalavite, già nostro ospite del soundcheck per parlare di musica e di Argentina diverse settimane fa. Quindi più tardi, dopo le 20, nostro ospite Peppe Servillo con Natalio Mangalavite per raccontarci questa nuova avventura discografica. Direi però di dare il via alla musica, come sempre, anche perché ho ricevuto diverse email nelle ultime settimane all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it di appassionati di musica che un po' se la prendono con noi, perché pare che molti brani vengano tagliati selvaggiamente dalla pubblicità, e io ho cercato di giustificarmi dicendo che è proprio per la pubblicità che noi riusciamo a fare questo programma. Sì, purtroppo, la pubblicità è poi anche quella che paga lo stipendio. Si dice, no? È l'anima del commercio. Sì. Allora, diamo il via alla musica tornando ad ascoltare Unstoppable, brano che è piaciuto tantissimo non solo a noi ma anche agli amici che seguono le vicende del soundcheck, protagonista la bellissima e bravissima Lian Lahavas dal nuovo album intitolato Blood. Questo è il soundcheck di Radio 24. Sì, da non perdere il nuovo album di Lian Lahavas, il brano era Unstoppable qui al soundcheck di Radio 24. Lo ricordo, dopo le news delle 20, i nostri ospiti Peppe Servillo e Natalio Mangalavite per presentare il nuovo album intitolato Parientes, un album italo-argentino. Sì, si rinnova il connubio fra la Campania e l'Argentina, cioè sembra veramente che siano tutti argentini. Sì, perché torniamo ai tempi di Maradona quasi. Esatto. Allora, da Lian Lahavas vi voglio proporre il talento di uno dei batteristi più richiesti in studio di registrazione ormai da 15 anni, Lil John Roberts. Avete mai sentito parlare di Lil John Roberts? Bene, questo signore è richiestissimo dalle star dell'R&B e del jazz. Pensate, ha iniziato a fare tournée all'età di 16 anni lavorando con Christian McBride e Joe DiFrancesco all'organo. Oggi è uno dei batteristi più più richiesti in studio da quelle formazioni che praticano l'R&B e l'hip hop, e ha realizzato ultimamente un album a suo nome intitolato Heartbeat, mi sembra giusto, il battito cardiaco per un batterista è fondamentale, coinvolgendo molti artisti con i quali ha collaborato. In questo brano splendido intitolato Space abbiamo la partecipazione di Eric Robertson, Anthony David, Stockley Williams e naturalmente Music Soul Child. Qui stiamo parlando di funk R&B della nuova generazione al massimo del potenziale. Sì, c'è anche Pino Palladino al basso, e poi ci sono nel video, ho visto diversi cameo, come ad esempio c'è Algebra Blessed, c'è anche Robert Glasper, Lala Hathaway. Sì, ci sono tutti, sì, ci sono i campioni della musica black di oggi, e mi pare che in questo brano in qualche modo c'è anche la partecipazione di un suo collega batterista accreditato in questo momento in tournée con D'Angelo, che è il formidabile Chris Daddy Dave. Quindi due batteristi in un colpo solo, Lil John Roberts e Chris Daddy Dave, in questo brano intitolato Space, al soundcheck di Radio 24. Homies are up to par. I don't drink, but I kill these bars. And ladies wanna know, oh, who we are. Well, come on stage and play with us. Music, poetry, and lust. Later on, we can discuss how you and your crew can make space for us. Soundcheck, il suono della musica. Ritorno di Robert Glasper con i suoi Experiment e la partecipazione del vocalist Anthony Hamilton in questo brano splendido intitolato Yet to Find. E abbiamo appena saputo che Robert Glasper tornerà in Italia per una serie di concerti, credo con il suo trio. Sì, perché sta per essere pubblicato il nuovo album, e credo ci sia stato un cambio nel programma di Umbria Jazz, e per questo motivo hanno coinvolto ancora una volta Robert Glasper. Ma perché vi parliamo di Robert Glasper? Perché sta per uscire il nuovo disco e noi lo stiamo anche per proporre. Eh sì, perché è quello che noi facciamo, siamo stati programmati per proporre e anticipare nuova musica, e lo facciamo con grande piacere. Il nuovo album di Robert Glasper sta per essere pubblicato, credo, dalla Blue Note. Sì, esatto. Ancora una volta con la Blue Note, è un disco un po' diverso dai precedenti fatti con gli Experiment, ovvero Black Radio 1 e 2, è un disco nel quale Robert Glasper torna alla passione per il jazz e al suono acustico con pianoforte, contrabbasso e batteria. Chi sono i compagni di avventura di Robert Glasper in questa produzione, mio caro Tromba? Sono Vicente Archer al contrabbasso e Damian Reed alla batteria, due della nuova generazione. Assolutamente formidabili musicisti che hanno accompagnato Robert Glasper in trio prima del periodo Experiment. E allora lo ripetiamo, Glasper sarà protagonista a Umbria Jazz quando? Il 16 di luglio, perché sostituirà inizialmente c'era programmato il concerto di Jonathan Batiste, invece hanno chiamato Robert Glasper Trio per sostituirlo. E allora ricordiamo anche che il nuovo album per la Blue Note in trio di Robert Glasper, intitolato Reckoner, credo, o sì, il brano si intitola Reckoner, tutti e due? No, il disco si intitola Covered. Ah, Covered. Sì, uscirà il 16 di giugno. E quindi noi suoniamo invece Reckoner. Sì. Eccolo qui, Robert Glasper al soundcheck, un'anteprima di Radio 24. Thank you. Soundcheck. Il suono della musica. Una consacrazione per il talento di questa ragazza che si è diplomata in jazz e naturalmente vocal jazz alla Berklee School of Music a Boston. Si chiama Lauren Desberg, album 21st Century Problem, brano qui presente al Soundcheck Radio 24 dal titolo Rocksteady, per questa ragazza che conosce oltre 200 standard e per questo motivo lì a Boston, quando studiava, era la vocalist più richiesta per i gig di jazz in giro per i club. Sì, con 200 standard di jazz ne fai di concerti. Sta andando molto bene Lauren Desberg, ho notato che è molto impegnata anche con i concerti, così come è impegnato in questo momento un altro signore che ha scalato le classifiche discografiche del jazz con una produzione abbastanza complessa e difficile in alcuni momenti e anche infinita nella durata. Infatti l'album, che potrebbe essere un album triplo, si intitola The Epic e ha come protagonista il sassofonista Kamasi Washington. Sì, è un sassofonista originario della California. Ha scoperto il sassofono quasi per sbaglio, perché suo padre era un sassofonista. Lui in realtà ha iniziato suonando batteria, pianoforte e basso. Un giorno, quando aveva 12 anni, suo padre lascia lì il suo sax alto e lui lo prende e inizia a suonare. Capisce che il sassofono è la sua voce, è il suo strumento. Sì. Poi, siccome fisicamente è abbondante, ha lasciato il contralto troppo piccolo per le sue mani e ha preso il tenore. Sì. È uscito dallo studio di registrazione per questo disco, che è una produzione assolutamente allucinante, perché si è chiuso in questo studio di registrazione per un mese e facevano questo orario dalle 10 di mattina alle 2 di notte. Sì, sì, ha coinvolto non solo un organico esteso, archi, un coro. Sì, infatti sì. In alcuni momenti veramente è un disco epico, perché sembra di ascoltare colonne sonore di film di antichi romani. Sì, infatti è uscito da questo studio di registrazione con 2 terabyte di musica, poteva fare tranquillamente 8 album, solo che il suo produttore, che è Flying Lotus, la sua etichetta Brain Feeder, gli ha chiesto: ma sei davvero convinto di fare tutte le canzoni, di mettere come fai a metterle tutte su 1 o 2 dischi? E lui ha detto: vabbè, vedrò un attimo di ridurre la durata dei pezzi, però io voglio mettere comunque tutto quello che ho suonato in studio. E ce l'ha fatta, ce l'ha a ridurre fatta, però ce l'ha fatta. 3 ore di... Sì, infatti, sì. Si inizia ad ascoltare l'album di Kamasi Washington e fai notte. Fai conto che erano una decina di ore prima, però dai, ha ridotto di più della metà. Kamasi Washington, allora io direi di proporre una delle tracce più easy dell'album, perché poi è abbastanza complicato, anche un po' pesante, però questo brano è divertente, il suono è sporco, un po' garage, ma la composizione è interessante, si intitola The Rhythm Changes, Kamasi Washington al Soundcheck, in attesa subito dopo le news di Radio 24 delle 20 dei nostri amici Peppe Servillo e Natalio Mangalavite, che hanno realizzato con Cavia Girotto questo album nuovo intitolato Parientes, e lo presenteremo fra pochissimo qui al Soundcheck. Kamasi Washington. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E dopo l'informazione di Radio 24, di nuovo collegati con il Groovemaster Studio per il soundcheck di oggi, e finalmente sono arrivati i nostri ospiti, li abbiamo già annunciati, eccoli qui, Peppe Servillo e Natalio Mangalavite. Buonasera e benvenuti, sono felicissimo di vedervi in forma. Grazie, buonasera a voi e grazie dell'invito. Allora, grazie Peppe, grazie Natalio, tu come stai? Avvicinati, questo è un microfono, Natalio, tu, lo so che tu suoni il pianoforte, ma questo si chiama microfono e tu per farti sentire ti devi avvicinare. Ecco, che dici? Ecco, ci sei? Ecco. Allora, dunque, abbiamo realizzato, avete realizzato un album nuovissimo intitolato Parientes. Credo che questo titolo non sia stato scelto a caso, a parte che poi è anche il titolo di una delle composizioni inserite nell'album, scritta da Natalio. Però voi ormai, per una frequentazione antica che vi portate dietro non so da quanti anni, siete quasi una famiglia, di fatto. Sì, beh, questo è il terzo album, abbiamo sempre in qualche modo cercato di indagare i rapporti tra la cultura popolare argentina, musicalmente parlando, e quella italiana, e questo disco concretizza questa intenzione nel narrare di figure di parenti, di figure familiari che tanto italiane quanto argentine, che circolano un po' nei nostri ricordi o in tanta letteratura popolare che ha ispirato poi spesso anche la composizione di queste canzoni. Ecco, manca il terzo fratello, che è Javier Girotto, argentino come Natalio, sassofonista fra i più quotati nel nostro paese. Tutti e due questi signori sono residenti in Italia ormai da anni. Non so se sei più italiano o argentino, Natalio, fatto sta che quando suoni si sente il tuo DNA. Il mio DNA. Vabbè, comunque io sono sempre figlio di siciliani, quindi questo DNA già parte bene. Abito qua dall'84, quindi ormai sono più italiano che non argentino. Però tu sai che le radici sono le radici. E quindi, insomma, sono sempre diviso a metà, specialmente quando giochiamo a calcio, non so più. Ecco, e qui ti volevo, perché proprio nella prima parte del soundcheck di oggi, il nostro Francesco Tromba, introducendovi, ha riportato proprio alla passione per il calcio, dicendo: vedi, è una accoppiata incredibile quella fra i campani e gli argentini, un po' come Maradona con il Napoli. E infatti noi abbiamo dedicato un intero album a questa faccenda qua del calcio e a quello che ci lega. E con il disco Football, sì, che è stato il secondo, e quindi siamo molto legati. Sì, me lo ricordo perché proprio durante gli ultimi mesi della passata stagione c'erano i mondiali, tu sei stato mio ospite, abbiamo messo in onda quel brano meraviglioso che racconta di quella famosa vicenda al Maracanã. Sì, la finale del 50. La finale del 50. Il protagonista Obdulio Varela, il giocatore più anziano, il centrocampista dell'Uruguay, il quale, facendo perdere tempo ai propri avversari, spezzò il loro ritmo, che erano in quel caso i brasiliani. E qua abbiamo a che fare con gente preparatissima, capito, da un punto di vista calcistico, Tromba. Sì, Osvaldo Soriano insegna. Sì, abbiamo preso spunto proprio da quello, è stato la motivazione che ci ha spinto a fare questo lavoro Football, perché quel libro ci ha veramente ispirato tutti e tre, e abbiamo deciso di fare un album proprio partendo da quel libro lì. E mi piace, scusa, ricordare la canzone No te mueras nunca, che era stata scritta invece, non nostra, da Juan Cáceres, un grande artista argentino che è scomparso poco fa. Allora, io direi di ascoltare subito qualcosa da Parientes, questo è il titolo nuovo che viene pubblicato dalla Egea, che poi è anche il management che cura la vostra attività concertistica, quindi credo che nelle pagine proprio della Egea troverete anche gli impegni, lo dico agli amici, che verranno a seguirvi dal vivo la prossima estate, sono segnati nelle pagine dell'Egea anche tutti i concerti dei quali sarete protagonisti. Si intitola Parientes, il nuovo album con protagonisti Servillo, Girotto, Mangalavite, il brano che dite di una milonga sentimental. È il brano che apre il disco e che apre anche i nostri concerti. Milonga per ricordarti, milonga sentimentale, c'è chi si lamenta e piange, io canto e li lascio stare. L'amore passa di colpo senza dire mai perché, ed io mi consolo e credo che fu amore solo che. Soundcheck, il suono della musica. Yeah. suono degli Aca Seca Trio, un trio favoloso che arriva dall'Argentina, che abbiamo scoperto alcuni anni fa qui con una composizione di Ugo Fattorusso, brano intitolato Harry, una composizione splendida rivisitata dagli Aca Seca Trio, che dovrebbero tornare in Italia anche loro la prossima estate o nei prossimi mesi. Perché parliamo di artisti argentini? Perché i nostri ospiti sono Peppe Servillo e Natalio Mangalavite, qui presenti per presentarci Parientes, questo nuovo album per la Egea, con il quale ci regalano emozioni argentine, spaziando un po' fra varie sonorità, perché poi il sound e la musica argentina non è soltanto il tango. No, tango ce n'è molto, però appunto, come accennavi tu con il titolo della prima canzone, ci sono anche milonga, cumbie, vari ritmi, ognuno dei quali ci indirizza verso un sentimento diverso che asseconda, speriamo noi, il personaggio, che il parente, la figura familiare che in ogni canzone proviamo a cantare. Javier e Natalio sono di Córdoba, del nord dell'Argentina, quindi una zona al limite della quale sono tanti i ritmi e le danze che si propongono, quindi il disco racconta le canzoni oltre che con il tango anche con i ritmi a cui accennavo prima. Ecco, musicalmente è un matrimonio formidabile, quello fra il sound di Natalio e Javier e la tua voce e la tua dizione e la tua interpretazione teatrale, insomma sei uno degli interpreti più accreditati da questo punto di vista del nostro paese, insomma dalle composizioni che scrivevi con gli Avion Travel, ma in questo album viene fuori proprio, insomma io mi sono molto emozionato ascoltandolo. Grazie, beh loro, bontà loro, Natalio e Javier hanno sempre pensato anni fa quando ci siamo incontrati che il mio modo di cantare ricordava un po' quello degli interpreti del tango. Io sono molto felice di questo, però voglio dire, la pronuncia teatrale è tipica dei cantanti napoletani. Io mi iscrivo in una tradizione che è molto antica, e se questa è apparentata con quella del tango, questo non può che farmi piacere. Ecco, tu mi hai detto che hai fatto più di 300 repliche con tuo fratello Tony in giro per l'Italia. Adesso avete una pausa di riflessione, ma riprenderete? Sì, abbiamo terminato le voci di dentro, all'estero in particolare poche settimane fa, di Eduardo De Filippo, e riprenderemo con uno spettacolo nuovo a gennaio e a febbraio che si intitola La parola canta, che è uno spettacolo di canzoni e di poesie, detta così però sembra un po' semplice, è comunque teatro musicale, riprenderemo l'anno 21. Tromba, hai qualche quesito tipicamente calabrese per i nostri amici? Sì, io essendo un grande fan della piccola orchestra volevo chiederti se c'è in progetto un nuovo disco, un nuovo tour, qualcosa. L'anno scorso abbiamo fatto una lunga tournée molto fortunata e bella, dopo 10 anni che non suonavamo assieme con la formazione originale. Quest'anno faremo qualche concerto, però stavamo pensando a un'idea di un disco nuovo, ma non è ancora al di là da venire. Potrei definirlo un album a conduzione familiare, perché il titolo di questa pubblicazione è Parientes, ma fra i brani che mi sono piaciuti ce n'è uno che si intitola La famiglia, quindi restiamo in argomento. Restiamo in argomento, è un omaggio che con Javier e Natalia abbiamo fatto proprio agli Avion Travel, perché è una canzone loro. Eccola qui, La famiglia, Servillo, Girotto, Mangalavite al soundcheck di Radio 24. Tu piangi sempre e mangi. Mangi e parli a bocca piena della vita degli altri come fosse la tua, e finisce che parli della mia vita che non ti appartiene, non l'hai mai saputa. Can you hear me? Mi. Soundcheck, il suono della musica. Parientes. Si vede dal naso che siamo parenti, gli stessi sorrisi e gli stessi commenti. Io guardo una foto ma sento strillare. Io guardo una foto ma sento strillare. Guardo una foto ma sento strillare. Parientes, questo è proprio il brano che dà il titolo a questa pubblicazione per la Egea, etichetta Sud Music, protagonisti Peppe Servillo, che Javier Girotto con i suoi sassofoni e la sua musicalità tipicamente argentina, come quella del nostro pianista Natalio Mangalavite. I nostri ospiti Peppe Servillo e Natalio Mangalavite, ai quali vorrei chiedere questo ponte fra Italia e Argentina. Questa composizione Parientes è una composizione che hai scritto tu, Natalio, ma ho notato che gli altri brani presenti sono poi stati scritti da argentini italiani. È stata una scelta ponderata o a caso? Sì, ma guarda, è stata una scelta molto ponderata. E il brano Parientes è proprio, io guardo una fotografia di questi miei parenti che stavano lì in un patio, cose, persone che ci stanno, persone che non ci stanno più. Insomma, per me è stato molto bello scrivere, perché giustamente quando io guardavo questa foto le sentivo strillare, come dicono le parole, no? Che si sente questo bocince, che si dice in spagnolo, no? Quando si sente questo, queste urla dell'allegria del stare insieme, no? Sì, dicevo che è stata una scelta molto ponderata, perché creare questo ponte, lui parlava prima della canzone napoletana, no? E la canzone napoletana con gli interpreti argentini di tango è molto legata, è molto vicina. E giustamente noi abbiamo scelto delle cover antiche del mondo del tango scritte da italiani, da italiani, no? Quindi è stata questa cosa, abbiamo fatto un bellissimo lavoro di ricerca per ottenere questa cosa qua. Ecco, avete realizzato l'album in pochi giorni, poche ore di studio, ma 2 anni di lavoro per preparare il concept e realizzare gli arrangiamenti, perché credo che poi tutta la parte, il background, pianoforte, sassofono e tutto il resto abbia degli arrangiamenti precisi e scritti. Sì, questa volta l'impegno è stato grande, infatti è tutto scritto e siamo molto contenti di questo lavoro. Senti, per i testi come hai lavorato, Peppe? Ma le canzoni ovviamente degli autori argentini narravano di storie ben precise, io ho lavorato alla traduzione, all'adattamento in italiano. Poi ci sono alcuni testi che ha scritto Natalio e ho cercato sempre di immaginare situazioni dove delle figure familiari potessero narrare con il ricordo e con le loro ambizioni, con le loro speranze, narrare le relazioni, i legami di famiglia, per come si concretizzano anche attraverso i gesti quotidiani. Mi piace a questo proposito pensare a una canzone come alla canzone Come si usa con ragù, che narra di un uomo che negli anni 50 al figlio racconta della propria origine italiana cucinando un ragù e per come lo cucina, ed è una canzone alla quale sono molto affezionato. Allora, Natalio Mangalavite e Peppe Servillo, nostri ospiti, vi vorrei fare ascoltare, se non l'avete sentito, un album pubblicato da pochissimo dal nostro amico collega Rosario Bonaccorso, contrabbassista italiano, formidabile, molto richiesto, che si è ispirato per questa nuova pubblicazione non all'Argentina ma al Brasile. Si sente molto Brasile, molta bossa nova, e in questo album c'è anche la presenza di Cavia Girotto, Fabrizio Bosso, insomma un disco molto ben realizzato. C'è Roberto Taufik alla chitarra, che dicevi, Natalio? Che ho suonato con loro. Anche in questo disco, in Viaggiando. Nel disco, sono andato dal vivo al posto di Taufik. Ah, vedi, sì, quando manca il brasiliano arriva l'attaccante argentino. Funziona così. Allora, il brano scritto da Rosario si intitola Mr. Kneip e sentiremo anche la voce di Rosario Bonaccorso, che in questo album si cimenta anche vocalmente e lo fa molto bene. Soundcheck, il suono della musica. Servillo, Natalio Mangalavite e Cavie Girotto, protagonisti di Parientes, nuovo album per la Igea, brano scritto da Cavie Girotto intitolato Terra che canta non mente, una sorta di manifesto proprio dei braccianti campani, pugliesi, calabresi e argentini. Il titolo non è male, proprio Cavie lo ha pensato. È una canzone che chiude l'album, è una canzone corale che dentro ha un grande sentimento di speranza. Mi piace pensare che il titolo rimanda a un'idea molto semplice, cioè quella che la musica serve a formare le persone. Se la musica fosse più al centro della vita di tutti, le persone potrebbero formarsi in una maniera e crescere in una maniera migliore. Questo mi viene da pensare a proposito di quanto la musica è presente nella nostra cultura di tutti i giorni e come lo è presente, in che modo. E quindi una terra che canta, che è abituata al canto, anche non solo a quello colto, ma anche a quello popolare, può essere una terra migliore. Senti, ma il nostro paese considera la musica un elemento importante oggi? Noi siamo un po' gli inventori di un certo tipo di approccio musicale, però mi sembra che negli ultimi anni, no, soprattutto i media hanno dimenticato che ci sono dei grandi artisti e delle eccellenze nel nostro paese. Si punta solo ai nuovi talenti e al pop scanzonato. Beh no, la musica nel nostro paese è fondamentale ed è importantissima. Il problema è che questo patrimonio non viene trasmesso. Non si considera l'importanza del trasmettere il valore di un patrimonio. Ecco, ma qual è il gap per te? Perché succede questo? Ma la musica dovrebbe essere reintrodotta meglio nella scuola, innanzitutto. E quindi nella formazione delle persone. E poi evitare gli steccati che fanno sì che la musica colta debba essere soltanto patrimonio delle persone che hanno una certa cultura, e questo per certi versi lo si fa, se penso come costa poco andare a sentire l'orchestra di Santa Cecilia, invece come costa tanto andare a sentire certa musica pop, e questo produce degli steccati e delle separazioni. Beh, io sono pienamente d'accordo, perché mi ricordo quando facevo la scuola media, l'ora di educazione musicale noi non facevamo completamente nulla, cioè era un'ora libera, un tempo perso. Cioè, se uno non ha una figura che ti inizia a capire i tipi diversi di musica che ci possono essere quando hai 10-13 anni, cioè poi avanti, più avanti vai, più è difficile riuscire ad assorbire. Ma anche a battere le mani sul 2 e sul 4, che mi sembra fondamentale. La prima lezione di musica che viene fatta ai bambini negli Stati Uniti, infatti vediamo che ai nostri concerti, ma anche in televisione, no? Quando partono le musichette e il pubblico applaude, è un disastro totale. Io mi sento male. Lo so, è un po' così. Infatti Peppe ha detto una cosa fondamentale, la musica, e io posso allargare il pensiero anche a tutta l'arte, no? Il teatro, no? Ad esempio. Sono cose fondamentali nell'educazione, perché io ho avuto la fortuna di fare una scuola sperimentale in Argentina, a Cordova, che certi pazzi, amici di mio padre, hanno creato questa scuola. Io sono stato il primo a farlo. Noi imparavamo tutto partendo dalla musica. Parlo della scuola elementare. È stata un'esperienza bellissima. Io ho imparato a respirare per cantare, ho imparato a leggere la musica così, ma anche facendo la matematica. Senti, vorrei chiudere con una domanda, a parte gli aspetti proprio legati alle note, agli arrangiamenti, agli strumenti, ma che cosa vi ha insegnato? Qual è la lezione più importante che avete appreso facendo musica? Che cosa vi ha insegnato la musica? A me ha insegnato piacevolmente a dimenticarmi di me stesso, cioè, e quindi a trovare comunione con le persone che suonano con me e con le persone che mi ascoltano. Cioè il senso della condivisione. La musica è anche spesso un'arte collettiva. È un'arte collettiva, sicuramente le individualità e i solisti sono importantissimi, però è un'arte collettiva nel momento in cui chi la ascolta si ritrova intorno all'artista che si esibisce e gode con lui, di lui, della musica che sta eseguendo. Quindi per questo è un rito carico di senso che ci vede coinvolti tutti. Mi ha insegnato questo, mi ha insegnato lo stare insieme. Esatto, per me è questa responsabilità che abbiamo ogni volta che saliamo su un palco, è di comunicare quello che veramente tu vuoi comunicare, di creare questa comunione fra te e quello che ti ascolta, che non sempre succede. Grazie a Natalio Mangalavite e a Peppe Servillo per la partecipazione al Soundcheck di oggi. Vi ricordo, si intitola Parientesi, il nuovo album insieme a Cavia Girotto per Legia Music, splendido. Non perdete l'occasione di acquistare musica di grandissima qualità, e che poi è la musica che noi vi presentiamo tutti i weekend qui al Soundcheck di Radio 24. Grazie a Francesco Tromba, grazie ragazzi per la partecipazione. Tornate quando siete in zona, ci fa sempre piacere. A presto. Allora. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 15.30. 15.30, sempre qui su Radio 24 con il Soundcheck. A tutti voi, buona serata da Gigi Telespo.